In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: «Convertitevi, poiché vicino è il regno dei cieli». Di lui parla il profeta Isaia, che dice: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Giovanni indossava una veste di peli di cammello, stretta ai fianchi con una cintura di pelle. Il suo cibo erano locuste e miele selvatico. A lui accorrevano da Gerusalemme, da tutta la Giudea e da tutta la zona adiacente al Giordano, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo un giorno venire al battesimo molti tra farisei e sadducei, li apostrofò dicendo: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a cercare scampo dall'ira ventura? Fate dunque veri frutti di conversione e non vi illudete dicendo: abbiamo Abramo per padre, poiché vi dico che Dio è capace di suscitare figli ad Abramo da queste pietre. La scure sta già sulla radice degli alberi, perciò ogni albero che non porta buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io sì, vi battezzo in acqua perché vi convertiate, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, ed io non sono degno di portarne i calzari. È lui che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ha nella mano il ventilabro per mondare la sua aia, raccoglierà il suo frumento nel granaio e brucerà la pula con fuoco inestinguibile». Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano per essere da lui battezzato, ma Giovanni voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, tu invece vieni a me?» Ma Gesù gli disse: «Lascia, per ora. Per noi, infatti, è doveroso adempiere ogni giustizia». Allora acconsentì. Non appena si immerse, Gesù risalì subito dall'acqua. Ed ecco, si aprirono a lui i cieli, e vide lo Spirito di Dio discendere in forma di colomba e venire su di lui. Ed ecco, una voce venne dai cieli che diceva: «Questi è il mio figlio diletto, nel quale ho posto la mia compiacenza».